te. Vorrei fermare un poco questa punta di fuoco, vorrei fermare il tempo, ma il tempo passerà. Me ne vado, amor. Espero.